saluto a tutti. Come introdurre l'argomento Africa? Si potrebbe parlare, penso, per settimane. Di solito si danno dei dati a proposito dell'Africa. Sono dati che parlano di situazioni abbastanza difficili che, diciamo così, rischiano di mettere un po', di fare di ogni erba un fascio, però qualcuno magari è opportuno darlo. Così proprio per partire da qualcosa di concreto, un continente molto vasto, con enormi varietà al suo interno, con oltre 900 milioni di abitanti, il numero preciso è impossibile saperlo, oltre 50 paesi indipendenti da una quarantina d'anni, la maggior parte. Un terzo di queste persone, si calcola, vivono nella povertà, nella miseria. Quasi la metà hanno problemi di alimentazione. Almeno 50 milioni soffrono la fame vera e propria. Quasi un terzo non hanno accesso all'acqua potabile. Un terzo non hanno accesso ai servizi di base, soprattutto ai servizi sanitari. Circa 200.000 bambini sono utilizzati come soldati, come piccole prostitute o schiavi domestici. Quasi 80 milioni di bambini sono non scolarizzati e comunque circa il 50% dei bambini abbandona la scuola strada facendo. Solo nell'Africa subsahariana 28 milioni e mezzo di persone sono infettate dal virus HIV-AIDS. La speranza di vita supera molto spesso di poco i 40 anni. Sempre nell'Africa subsahariana stiamo parlando. La malaria uccide ogni anno più di 300.000 persone. Benvenuto. Malgrado questo, c'è la disponibilità di un medico ogni 15.000 abitanti. Questi sono alcuni dati, se vogliamo, un po' impressionanti. Li dico non per dire che questa è l'Africa, ma per dire che anche questa è l'Africa. Forse questo è il motivo per cui molti di noi si sono avvicinati o si sono sentiti in qualche modo tirati da qualcosa per andare in quel continente. Una volta arrivati lì, molto spesso si vede una realtà, diciamo così, diversa, perché i dati, freddi se vogliamo, si trasformano in volti, in persone, in esperienze concrete. E allora qui, in queste esperienze concrete, c'è la miseria, c'è la povertà, ma c'è anche la ricchezza, ci sono i rapporti personali. Ci si rende conto che non è tanto importante, o continua ad essere importante quello che si dà, ma non è solo quello, è importante anche quello che si riceve. E insomma, l'immagine dell'Africa che si aveva prima di partire, pian piano incomincia a cambiare. Questa penso che sia un po' l'esperienza che accomuna noi tre e un po' il filo conduttore anche di questa serata. Ognuno parlerà un po' della sua esperienza personale, però cercando di andare oltre l'immagine un po' stereotipata che si ha dell'Africa, quando c'è, perché molto spesso in realtà non c'è nessuna immagine dell'Africa. Quando c'è un'immagine, è un'immagine stereotipata e vale la pena, ecco, distruggere qualcuno di questi luoghi comuni e sollevare qualche interrogativo in più, qualche dubbio. Questo penso, questo che cercheremo di fare questa sera. Presento brevemente i miei due compagni. Allora Andrea Nicoli, presidente professione informatico, proprio l'informatica che lui ha portato in Africa o l'informatica che l'ha fatto andare in Africa in qualche modo. Mi pare che i suoi rapporti siano con l'Eritrea e ci racconterà appunto come mai, cosa ha fatto, quali sono le sue considerazioni. L'altro ospite è Pietro Marangoni, giornalista, anche lui più volte si è recato in Africa come volontario privato e anche lui ha accumulato quel bagaglio di conoscenze e di punti di domanda che oggi metterà parzialmente a nostra disposizione. Quindi io darei subito la parola a Andrea Nicoli e poi vedremo come si evolve la serata. Ecco, io saluto tutti i partecipanti e vi ringrazio. Ringrazio anche la presentazione del dottor Valente. Penso di dare un approccio molto legato all'Eritrea, in quanto la mia esperienza dell'Africa è dell'Eritrea, e lascio ai miei colleghi forse parlare più in generale sull'Africa. Come è nata questa esperienza? È nata nella volontà di voler aiutare qualcuno in Africa e io insieme ad altre persone abbiamo raccolto dei computer che sono stati spediti in Eritrea presso i padri cappuccini. L'idea era quella di dire, beh, non hanno i soldi per comprare i computer, gli mandiamo dei computer che da noi sembrerebbero obsoleti, però che vanno molto bene e funzionano. E cos'è successo? È successo che 6 mesi dopo arriva una telefonata e dicono, ma non avete anche un libro che insegni come si fa l'insegnante di informatica? Io, cioè, non avevo un'idea, adesso ho un'idea, come ha detto Valente. Molto spesso dell'Africa non si ha un'idea. Dopo un mese che sono stato giù mi sono fatto un'idea, ma all'epoca ho detto, no, guarda, prendi, viene su la persona, la affianchiamo, io ho una scuola di informatica qua a Bolzano, la affianchiamo i miei docenti, fa l'esperienza. In realtà una cosa che ho capito stando lì e che non si capisce da qua è che quando lo stipendio medio è di 50, l'equivalente di 50-60 euro al mese, affrontare un viaggio 1.100 euro, affrontare 2 mesi di permanenza a Bolzano, cioè 3-4 mila euro, è un investimento tale che neppure i frati cappuccini possono permettersi, perché stiamo parlando di vabbè, quanto? 40-50 mesi di stipendio, insomma, una cosa folle, e quindi è molto più conveniente che un occidentale prenda l'aereo, lì mangiare il vito l'ho avuto gratis, ma costa così poco, vi garantisco che, cioè, se lì vivono con 50 euro, io penso aver speso viaggiando, girando tutta l'Eritrea, sino 300 euro, quindi è una cosa. E quindi l'esperienza è nata in questa maniera, che a un certo punto, capito, sono andato giù io. Sono andato giù quando, il mese di agosto, che era l'unico mese che si poteva andare, creando dei problemi di conflitto perché loro sono molto legati alla fede della Madonna, quindi il 15 agosto è una festività incredibile che viene preparata con 2 settimane di preghiere, poi vi racconterò anche qualcosa di questa visita. Bene, io comincio subito a presentarvi delle foto, spero che vediate abbastanza bene qua. Ok, allora, una cosa. Io ho scritto il mio nome nella loro scrittura, ci torniamo dopo, loro hanno una scrittura di tipo semitico, che è interessante, secondo me è una curiosità molto bella, perché a me è piaciuto scoprire l'Eritrea anche come cultura. Allora, parto subito dandovi alcune idee, circa perché confronto l'Italia e l'Eritrea? Io ho scoperto che l'Eritrea non è altro che una piccola Italia. Gli italiani dal 1870 al 1970 hanno governato l'Eritrea, prima come colonialisti, poi come diciamo, fascia della popolazione che era in grado di governare. Dopo il colpo di Stato di Mengistu gli italiani sono scappati via, però l'Eritrea è una piccola Italia. Purtroppo ci sono stati 30 anni di guerra di liberazione tra Eritrea e Etiopia. Molti italiani sconfondono l'Etiopia con l'Eritrea, questa è una cosa un po' particolare che sarebbe bene non fare. Gli abitanti sono 4 milioni con una densità di 37 abitanti a chilometro contro i nostri 192, quindi ci sono spazi enormi. Le lingue sono ufficiali il tigrino, l'arabo, poi l'inglese e l'italiano. L'italiano sta per scomparire, nel senso che l'italiano viene parlato dalle persone che hanno più di 40 anni. Dal 1970 in poi hanno puntato tutto sull'inglese, quindi l'italiano sta perdendo. La religione, qua c'è scritto 50% musulmana, 40% cattolica, 40% ortodossa, 10% cattolica, però c'è da dire che i musulmani in questo periodo stanno avendo una maggiore prolificità e quindi queste statistiche si stanno spostando verso una maggioranza musulmana. E soprattutto ci sono anche dei forti rapporti con lo Yemen, quindi c'è proprio un potenziamento della realtà musulmana. Ecco, l'Eritrea. Beh, qui vedete delle cose su questa cartina. Qui abbiamo il Mar Rosso e qui, scusate, puoi darmi il cavo un po'... No, basta solo che lo passi sopra. Ecco, ok. E qui abbiamo una catena di montagne che supera i 2000 metri, quindi abbiamo in brevissimo spazio, parliamo di 20 km, 30 km, che si passa dal livello del mare a 2000 e oltre metri. E poi qui c'è tutto un altipiano che scende verso il deserto del Sudan. C'è una caratterizzazione molto particolare in questa terra. D'estate, parliamo diciamo da giugno fino a settembre, il vapore del Mar Rosso sale in quota, viene portato dai venti sopra l'Eritrea e nel pomeriggio incontra delle correnti fredde che viene, fredde per modo di dire, comunque in quota sono fredde, e ci sono le precipitazioni. Si parla di stagioni delle piogge, però da giugno a settembre stagione delle piogge vuol dire che la mattina comincia a scaldare fino al mezzogiorno 2 e lì abbiamo 30 gradi, 32 gradi, nel pomeriggio si raffredda, la sera si dorme benissimo. Una sera ad agosto io avevo 16 gradi e 3 coperte per dormire, tanto per darvi un'idea, cioè sarebbe ideale a Bolzano avere un bel caldo fino alle 2 del pomeriggio e poi il fresco. Ecco, questo qua vi parlo un attimo del problema del conflitto. Il problema del conflitto è molto vasto, ci sono tante cause. La causa forse più importante, come al solito, è quella economica. Qui c'è il porto di Massawa, che era lo sbocco naturale dell'Etiopia sul Mar Rosso. Alla fin fine, all'Etiopia, del resto dell'Eritrea gli interessava poco, ma gli interessava questo. Poi ci sono altre cause, in questa zona ci sono miniere di uranio, in queste zone ci sono altre zone di miniere. Effettivamente comunque c'è un conflitto e non entriamo nel merito del conflitto, vi dirò solo questo, che ci giocano pesantemente le potenze mondiali, Stati Uniti, Cina e Russia. Gli Stati Uniti danno quasi la metà dei loro, diciamo, contributi africani all'Etiopia. Dall'altra parte la Cina e la Russia aiutano l'Eritrea. E l'Etiopia, questo lo leggete sui giornali, va in Somalia a difendere gli interessi americani, l'Eritrea va nell'altra parte della Somalia a combattere gli interessi americani. Quindi c'è tutto dietro un discorso molto complesso. Vi parlo delle lingue perché è una cosa che io ho trovato molto bella in parallelismo alla nostra realtà dell'Alto Adige. Quando è stata dichiarata l'indipendenza dell'Eritrea, è sorto il problema delle lingue. Qualcuno ha cominciato a dire, attenzione, avere 9 lingue è molto pesante, non si può avere una scuola con 9 lingue, una per ogni etnia. Qualcun altro invece ha detto no, bisogna rispettare, anche perché Fronte di Liberazione è una composizione che rappresenta metà musulmani, l'altra metà cristiani, ma anche rappresenta varie etnie, e quindi hanno deciso di rispettare questo. Parliamo pure di tribù, perché stiamo parlando anche e soprattutto di tribù, ha avuto la sua scuola nella sua lingua, però il problema era economico. Non si poteva avere le elementari, le medie, le superiori, ragioneria, scientifico, classico, vecchio sistema italiano poi, perché lì c'è tutto Italia. E allora cosa hanno fatto? Hanno fatto un'unica scuola che va dalla prima alla tredicesima, programma unico solamente in lingue diverse. Questo è un pochettino il ragionamento. Le lingue più parlate, attenzione, che sono il tigrinio, si scrive tigrino ma si dice tigrinio, e il tigre. La differenza tra tigrinio e tigre potrebbe essere tra lo spagnolo e l'italiano, tanto per darvi un'idea. Dunque, il tigré si parla in questa zona qui, il tigrigno si parla in questa zona qui. Il discorso molto spesso che voglio dire, perché gli italiani fanno anche confusione, parlano dell'Abissinia. L'Abissinia è questa zona che prende la Tigrigna e questa zona qua sotto dell'Etiopia, il famoso sogno dell'impero di Mussolini, che aveva una sua logica, avere un'unica zona molto fertile come colonia, che era la colonia Tigrigna. Tutto qui. Allora, parliamo della scrittura. Ci sono naturalmente tre tipi di scrittura lì: quella semitica della lingua tigrigna e del tigre, quella araba classica e quella latina inglese. Vi faccio vedere questa bellissima bottiglia della Coca-Cola, perché questa è praticamente la lingua loro, ha una scrittura legata alle consonanti e ogni consonante ha un trattino che indica la vocale associata alla consonante. Allora qui abbiamo Coca, dove riconosciamo la C sopra, fatta così, il trattino a sinistra in basso è la O, il trattino a destra in basso è la A. Infatti poi abbiamo Co-La, vedete il trattino in basso della A. Naturalmente gli dicono che il loro alfabeto è molto migliore di quello latino, comunque è molto interessante studiarmelo, io me lo sono studiato ed è divertente. Ok, vediamo subito il mio intervento, poi vi parlerò un pochettino della cultura di questo paese. Questi sono i computer, come li avevano installati loro. Allora, voi vedete che cosa hanno fatto? Siccome non avevano nessuna pratica, hanno pensato di tagliare un buco nel tavolo e mettere i monitor giù, perché avevano visto, degli internet caffè dove c'erano i monitor piatti con gli utenti intorno. Io, e poi non erano neanche riusciti a farlo perché avevano sbagliato le misure, eccetera, eccetera. Io sono arrivato e gli ho detto, ma ero molto anche perplesso, e ho studiato una soluzione. Ecco, vedete l'aula come l'ho rimessa a posto. Praticamente ho visto per fortuna che il buco non era troppo grande, ci stavano un po' di sbiego e sono riuscito a mettere a posto. Allora, come facevo lezione? Facevo lezione, dunque, mi sembra dalle 8 del mattino fino a mezzogiorno, o dalle 8 e mezza alle mezzogiorno e mezza, poi si faceva pausa pranzo in refettorio, poi si faceva il pomeriggio lezione fino alle 5 e mezza, e poi alle 5 e mezza i frati, i miei allievi che erano i seminaristi, andavano a pregare, in chiesa a cantare, si cenava alle 7, alle 8, 8 e mezza si ritornava e si faceva lezione fino alle 10 di sera. Tenete presente che mentre io la mattina alle 3 e mezza del mattino sentivo le loro sveglie suonare e dormivo fino alle 7, loro alle 3 e mezza erano di nuovo in chiesa a cantare e pregare e poi a pulire il convento. Quindi loro praticamente finivano alle 10, andavano a dormire, 3 e mezza erano di nuovo in piedi. Eccoli qua, i miei allievi. Io quando ero partito ero convinto di dire, ma se studiano al seminario sanno il latino, l'italiano lo sanno. Invece l'italiano lo sapevano poco, il latino lì proprio non si studia in Africa. E questi allievi hanno imparato due cose con me, l'italiano e l'informatica. I primi 3 giorni sono stati veramente, non per me, ma per loro, molto particolari, perché c'era un frate che traduceva quando loro non capivano, ma comunque loro erano abituati alle preghiere o ai pochi messaggi del Papa, ma la lingua italiana era ed è una lingua scritta, diciamo, nel seminario, non è una lingua parlata. Invece loro si facevano 10 ore di lingua italiana di lezione, col computer, molto tranquilla, che io ripetevo, ma comunque è stata un'esperienza. Eccoli qua, questi sono i miei frati, ne mancano 5 della foto, perché l'ultimo giorno sono scappati, non sono riusciti a fare la foto. Vedete il frate anziano in grigio. Allora, questo è il frate anziano del convento. Questo è il frate che organizzava l'informatica, insomma, anche lui poco esperto. E questo è voluto stare qui, è uno dei classici meticci, uno dei grandi problemi. Tanti italiani, dopo il colpo di Stato, sono scappati in Italia, hanno lasciato moglie e figli laggiù. E lui è in attesa di avere un permesso come cittadino italiano, di avere un riconoscimento. Questo è un grosso problema, quello dei meticci, che Io comunque penso che sia bello da parte mia che vi trasmetto un attimo questa cultura che c'è in Eritrea. Allora, qua vediamo una chiesa, è la cattedrale di Asmara, la cattedrale, ce ne sono due, una del vescovo e una dei frati cappuccini. Questa è la cattedrale costruita negli anni 20-30, quando c'era Mussolini che voleva fare il grande impero, e vedete subito che è una chiesa italiana. Lo vedete immediatamente come architettura, come tutto. Questa, sempre siamo nella capitale, vediamo delle costruzioni classicamente italiane. Io la prima cosa che mi ha colpito è stata questa, cioè quello che vediamo qua, questo grosso palazzo in alto a sinistra, è il Ministero dell'Educazione. Quello che trovate a destra è una classica casa, una volta abitata dagli italiani, adesso ovviamente abitata dagli eritrei. In basso a sinistra vedete una casetta che è una classica casa toscana o del centro Italia, se voi avete visitato quelle architetture le vedete. L'altra costruzione, non so se si riesce a leggere Fiat, è comunque qui c'è scritto Fiat. Questa era diciamo l'officina della Fiat. Ci sono le due ali della struttura, le auto passavano, sotto c'erano i meccanici collaudatori e lì facevano le riparazioni della Fiat. Tutte le autovetture in Eritrea erano Fiat, perché era così. Questa struttura adesso praticamente non esiste più. La Fiat non ha più quel predominio, oggi lì sono quasi tutte macchine Toyota oppure macchine che hanno grosse caratteristiche di robustezza che Fiat probabilmente non va. Ci sono anche problemi di temperature. Per esempio, uno dei problemi che sono venuti fuori recentemente, hanno cominciato a asfaltare le strade. Asfaltando le strade hanno cominciato a scoprire che i copertoni che andavano bene sullo sterrato, sull'asfalto durano niente. Per cui tutta una serie di problemi economici che stanno venendo fuori in un paese in evoluzione. Ecco, una cosa caratteristica che a me è piaciuta moltissimo è visitare i cinema. Tutti i cinema lì hanno i nomi italiani nella capitale. Questo è il Cinema Impero. Beh, voi vedete che sotto c'è la scritta in semitico della lingua tigrigna. Comunque sono cinema classicamente italiani. Cinema Roma. Il Cinema Roma è molto bello, se dentro ci sono ancora le macchine di proiezione di 50 anni fa, proprio le vecchie macchine con i vecchi rulli di pellicola, ristrutturati, ma veramente è roba da turisti vederlo. Peccato che quando io volevo vedere un film, quel giorno si era guastato l'impianto elettrico del cinema, perché lì c'è pure tutto il problema di un paese in guerra, quindi ci sono situazioni. Cinema Odeon. Classico nome italiano che è rimasto, è un po' meno tenuto bene. Cinema Dante, qui siamo nella zona popolare della città, mentre i primi tre cinema sono nella zona centrale, in quella che era la zona residenziale italiana, questa è la zona popolare, fanno solo praticamente cinema in arabo in questa zona perché siamo vicini alla moschea, comunque si chiama ancora Cinema Dante perché la cultura è questa, no? L'Eritrea è stata costruita dagli italiani e un'immagine che vediamo subito è il nostro famoso Cinar, che si chiama Carciofo laggiù, è un po' meno alcolico, forse meglio, lo spumante Asti Cinzano che invece si chiama Asmara, ma guardate, le cose che si trovano lì sono quasi tutte di origine italiana e questa è una vecchia torrefazione, è l'unica che ho visto, dove fanno il caffè torrefatto con macchine di 40-50 anni fa, gli italiani sono scappati e loro continuano a usare le cose degli italiani, le insegne degli italiani. Per esempio c'è un negozio vicino al mercato del pesce che si chiama la Casa del Formaggio. Allora io sono andato e gli italiani hanno insegnato agli eritrei a fare alcuni formaggi, tra cui il provolone. Peccato che il provolone che fanno in Eritrea adesso lo sgrassano, ci fanno il burro, lo sa Dio cosa ci fanno alla fine di provolone, vabbè, e ci vuole molta fantasia a chiamarlo provolone, Poi c'è qualcuno che faceva il gorgonzola, anche lì non vi dico, insomma, ci sono tutta una serie di cose. Casa del formaggio alla fine aveva mozzarella e provolone, tutto il resto poche cose, però l'insegna non la cambiano, mantengono l'insegna di 30-40 anni fa perché sono, anche perché non hanno i soldi. Ditemi se vado fuori tempo. No, posso ancora? Allora, io ho messo queste due foto che non sono venute bene perché voglio spiegarvi un attimo la filosofia di questo popolo. È un popolo dove le madri crescono i bambini portandoseli nei campi, hanno delle culle che appendono qua dietro la schiena, le madri lavorano i campi e i bambini stanno dietro la schiena della madre fino a 2 anni, 3 anni anche, protette da un telo se c'è troppo caldo per evitare il sole, però quindi c'è un forte contatto tra i bambini e la loro mamma, e devo dire che è un popolo molto tranquillo, molto gentile, non è un popolo violento, cioè non c'è da aver paura, con queste persone veramente io non... sono stato una volta in una chiesa, era piena, strapiena, mi hanno ceduto, addirittura si sono alzati, mi hanno ceduto il posto per star seduto, perché io le loro messe che durano 2 ore non siamo abituati, ne sta 2 ore in piedi, no? Comunque qui vedete due abiti da sposa, nell'altro negozio vedete un abito da sposo tipico locale, purtroppo la foto non è venuta bene, ma solo questa. Poi qui invece vediamo un'altra cosa, se uno non lo sapeva, cioè se non me l'avessero spiegato, questo è un funerale, perché per loro il vestito bianco è il vestito che si usa quando si va a incontrare altre persone, indipendentemente dalla situazione, quindi al funerale si va vestiti di bianco, perché è un po' una festa. Questa è una cosa tipica, noi dobbiamo tenere presente che lì la cultura è una cultura un po' mista, e comunque è una cultura fortemente ortodossa, che ha origine nella chiesa copta, egiziana copta di una volta. Ok, io stavo in due posti, uno era questo, io stavo sabato e domenica nel santuario di Sant'Antonio. Il santuario di Sant'Antonio mi ha colpito una cosa, il fatto che ci vanno dei musulmani a pregare. Sì, perché? La popolazione tra cattolica e ortodossa fa fatica a capire già la differenza tra le due. Diciamo che i cattolici sono quelli che si sono avvicinati per varie ragioni che non sto a spiegare. Gli ortodossi sono, diciamo, il gruppo religioso cristiano originale ancora di 2000 anni fa. Però per questa gente un santo da pregare è un santo da pregare. E quindi un musulmano va a pregare Sant'Antonio. Cioè non è che sia... non c'è conflitto religioso, almeno adesso, speriamo che non succeda. Il Luna Park di Asmara. C'è questa manifestazione che si tiene, credo, una volta all'anno, dove c'è la possibilità di vedere tante cose della cultura. Una cosa è che lì vicino c'è il Luna Park. Io ho messo queste 4 foto per far vedere che insieme ai giochi tradizionali, lì non ci sono Luna Park costosi, elettronici, assolutamente, quindi lo scivolo, il trenino fatto con i bidoni. In un paese in guerra da 30 anni, nel Luna Park per i bambini c'è anche l'elicottero e c'è anche l'aereo da guerra. Perché questa è la loro logica, cioè loro, al bambino si diverte con l'elicottero, con l'aereo da guerra. Noi non saremmo disposti a questo, ma lì è abbastanza normale. Ecco, io vorrei dedicare ancora 10 minuti, se è possibile, al viaggio che ho fatto, perché io ho visitato un pochettino l'Eritrea, quindi questi sono i percorsi. Ho fatto, diciamo, 4 grossi viaggi, uno da Asmara a Mendeferà, che vedete qua, dove c'è il convento dove è installato la scuola, uno a Segheneti, che è questo posto qui, uno a Massawa, e poi questo lungo viaggio, lungo, parliamo di 300 chilometri, ma 300 chilometri là sono 5-6 ore di viaggio, per andare in questa zona qui dove vedremo anche Daghilò, perché ho visto delle cose che sono veramente carine. Allora, a Segheneti cosa c'è di bello? A parte il nuovo convento che stanno costruendo con tutta una serie di fatiche, c'è il simbolo della guerra di liberazione eritrea. Voi vedete, questo è il frate che mi accompagna, questa è l'auto con la quale ci muovevamo, questa è la dimensione dell'albero. Sotto quest'albero la direzione del fronte di liberazione si rifugiava per non essere vista dagli aerei e, diciamo, studiava le azioni di guerriglia contro gli etiopici. Tanto per darvi un'idea, quest'albero è simbolo della liberazione e sta su una delle banconote, sulla banconote da 5 NACFA, che è la valuta locale. Allora, Mende Ferrà è un paesino costruito dagli italiani, non esisteva prima che arrivassero gli italiani. Mende Ferrà è un nome che significa chi ha paura del leone, perché era un bosco dove vivevano leoni. Gli italiani hanno detto: no, qua ci tagliamo, facciamo una bella strada. Questa è la strada, hanno costruito le case italiane ai lati della strada. La popolazione locale, ecco, qui vediamo su una collina il convento dove io ho messo la scuola di informatica, che è il convento dei frati Cappuccini, e la popolazione locale ha costruito le sue case dietro la via principale. Questo è un esempio di casa abbastanza simile ai nostri standard. Questo è un esempio di casa invece molto frequente lì, vedete come sono fatte. Qui invece vedete questa casa che è tipica delle costruzioni musulmane. Quindi vedete come i musulmani hanno un concetto di casa diverso rispetto agli ortodossi e cattolici. Ecco, l'altro viaggio che ho fatto è Massawa. Massawa, come vi ho detto prima, era un po' il vero obiettivo della guerra. Il porto sul Mar Rosso. Per 2 anni i due fronti si sono combattuti, bombardati, e qui vedete cosa rimane della città. Questo è il centro, dopo 15 anni, non hanno ancora ricostruito tutto. Questa è una bellissima casa medievale, vedete la struttura in legno che sta decadendo. E queste qui sono quello che rimane delle bidonville. Gli sfollati di Massawa sono andati in periferia, hanno costruito le loro baracche, poi il governo li ha fatti sloggiare perché sembrava che la regione Lombardia facesse un grande investimento turistico, perché lì c'è veramente un grande potenziale turistico. Poi c'è stata una cosa durante il governo Berlusconi che ha bloccato tutto, per cui gli sfollati sono stati sfollati da un'altra parte ancora e tutti gli investimenti, l'aeroporto nuovo è stato tutto fermato. Per varie ragioni. Ecco, qui vediamo Keren. Di Keren scusate un secondo. Sì, ok. Allora, Keren è un posto dove c'è questo santuario. Vedete quest'albero? È scoppiata una bomba durante la Seconda Guerra Mondiale che ha distrutto tutto. È caduta vicino all'albero. All'interno dell'albero c'era da sempre una Madonna. L'albero è rimasto sa salvo. E da quel momento lì tutta la popolazione va a pregare perché ritiene che è stato un grande miracolo, perché è stato distrutto tutto quello che c'era intorno. Questo è l'ingresso, sono i frati cistercensi della Germania che gestiscono questo santuario. E qui vi faccio sempre di Keren la foto della vecchia cattedrale e della nuova cattedrale. Notate che sulla vecchia cattedrale ci sono i confessionali, che sono questi qua, all'aperto. Perché tanto lì, a parte la stagione del piove, non piove mai, quindi non c'è problema, tutto all'aperto. Cos'è che volevo raccontarvi? Io prima avevo detto, in questa chiesa, io arrivo sabato sera chiedo ai frati, ma la messa del mattino, quando si tiene, mi dicono alle 6 del mattino. Ho detto, no, guardate, 6 del mattino, no, ditemi quella successiva. E lì mi hanno spiegato, no, guarda che qui la gente, alle 4, da domenica, va a pregare e cantare. E alle 6 a questo punto non è il caso di dire andate a casa e tornate, allora alle 6 fanno la messa fino alle 8. Anche io la mattina mi sono alzato alle 6, in tempo, sono andato lì, ho trovato la chiesa strapiena, non pensavo di trovare questa chiesa piena, ero un po' preoccupato di stare 2 ore in piedi, c'è uno che si è alzato e mi ha dato la sedia, è stato di una gentilezza incredibile, e comunque è un popolo veramente stupendo. Quello che volevo dire di questa città è che è una delle zone dove il governo investe di più. Un po' perché il fronte di liberazione è nato nella zona di Keren e un po' perché lì c'è una forte zona di predominanza musulmana e questo ha un po' di influenza. Però devo dire che la zona di Keren è tenuta molto bene, almeno a livello di facciata. Poi dietro forse bisogna, se qualcuno mi ha detto che dietro ci sono dei problemi, però c'è un artigianato fiorente, c'è un'agricoltura fiorente. e anche le varie religioni, vedete che possono costruire delle belle chiese, quindi hanno, diciamo, un senso di sviluppo. Qui vediamo un'altra cittadina dove la gente, il popolo vive nei tugul, queste case che sono fatte o in terracotta, ma non terracotta argilla, cioè terra un po' cotta. Questa zona è uno dei mercati del legno più fiorenti, uno dei grandi problemi dell'Eritrea. È una zona dove esisteva una coltivazione vinicola e esiste una cantina italiana che è stata ristrutturata e lì fanno il vino. Una bottiglia di vino costa all'incirca 2 euro al litro. Se voi pensate al loro stipendio, che è 50 euro al mese, l'equivalente, è un costo spaventoso. Però è l'unica cantina e loro mi hanno spiegato il motivo, perché loro comprano tutte le macchine in Italia e questo costa un'ira di Dio, scusate l'espressione, però costa tantissimo e quindi il vino costa tanto. Ecco, qui siamo in un'altra zona, Barentu, ci stiamo avvicinando verso il confine e qui col vescovo di Barentu, che mi ha accompagnato in un piccolo villaggio, siamo andati, vedete tutti i tugul, questa è una classica visione del paese. Andiamo ad Aguilò, passiamo i fiumi con la macchina, incontriamo contadini che hanno gli aratri in legno, cosa che da noi è dal Medioevo che non esistono più, contadini con sempre aratri in legno e cammello. In questa foto stranissima vedete degli arbusti buttati per terra? Beh, sappiate che lì l'agricoltura, questo è per darvi un'idea dell'agricoltura, quando seminano, per evitare che gli animali vadano sul campo seminato, buttano gli arbusti così, così gli animali non ci vanno dentro. Cioè non hanno investimenti, soldi per fare recinti, quindi usano questo sistema. L'anno dopo rifanno la stessa cosa. E qui è il problema. Io vorrei approfittare di questo per accennarvi il grosso problema dell'Eritrea. Il governo ha obbligato tutti i giovani, ragazzi e ragazze, a fare servizio militare dai 18 anni ai 28-29 anni. Quindi nei campi ci lavorano gli anziani, gli invalidi di guerra e le mamme che sono rimaste incinte e non hanno fatto il servizio militare. Quindi tutte forze deboli. Gli italiani all'epoca, diciamo, del loro governo riuscivano, con la meccanizzazione a fare 2 raccolti all'anno. Adesso gli eritrei non riescono a coltivare tutti i campi e comunque non riescono a fare più di un raccolto all'anno. Il governo purtroppo non ha dei buoni economisti. 5 anni fa, 4 anni fa, ha detto: beh, compriamo noi trattori, ma poi i contadini si sono resi conto che il costo della benzina, che costa 2 euro al litro, perché la benzina è un prezzo internazionale, costa molto di più di un bracciante. E quindi la produttività non riesce a ripagare i costi della benzina. Pertanto hanno abbandonato, ci sono tutti i trattori abbandonati in qualche deposito del governo e sono ritornati a fare la coltivazione tradizionale con tutti i problemi di produttività e quindi un popolo che soffre anche la fame. Infatti a me han chiesto, la prossima volta vado giù, di portare giù sacchi di farina, perché hanno questi problemi. Ecco. D'Aguilò è un villaggio, uno dei pochi villaggi fissi di questa tribù che sono la tribù Kunama ed è una delle poche tribù della zona che ancora, dove ancora vige il matriarcato. Le donne comandano. Okay. Vedete la foto con le tre signore che sono venute fuori. In basso a sinistra vedete il classico trasporto di una donna con i due secchi appesi al bastone. A destra vedete, sono io, ero un po' più grasso all'epoca, ho fatto una dieta, sono io insieme al vescovo, il vescovo della zona, dietro abbiamo la chiesa del villaggio e sotto abbiamo il campanile. Vedete il campanile come è fatto? Ecco, quindi poi ci sono altre foto, dentro la chiesa è una specie di centro sociale, ci sono delle tavole, delle lavagne, ci sono... C'è il tavolo dove viene fatta la cerimonia religiosa, è una struttura un pochettino particolare. Questo è il livello della popolazione. Eden, anche questo è un posto dove sono stato. Due cose che volevo dire, nelle foto sono evidenti. Diciamo, dal convento ho fotografato una piccola proprietà che ricinge un vecchio tugulo e una casa nuova. E lì ho chiesto, ma come mai questa cosa? E mi hanno detto, i genitori preferiscono abitare nel tugulo, che ha una temperatura diversa, più fresco, eccetera. I figli preferiscono abitare nella casa nuova. Quindi c'è questa evoluzione lenta. Sopra vedete una delle cose più disastrose dell'Eritrea. Gli etiopi, durante la loro dominazione, hanno usato l'Eritrea come fonte per il legno. E praticamente hanno tagliato gli alberi, la stagione delle piogge ha slavato la terra e le colline e le montagne spesso si presentano in questo modo. Quindi c'è un grosso problema ecologico anche da quelle parti lì. Ecco, io credo di aver finito. Spero di avervi dato delle informazioni. Volevo farvi vedere, se c'è ancora tempo, un filmatino, o è troppo? Dopo, ok, va bene. Lascio la... Grazie. Accendiamo le luci. Spostiamo il catafalco. Sì, no, aspetta, lo spengo. Ecco, adesso mi pare che rimaniamo più o meno in quella zona dell'Africa, no? Non solo. Ripartiamo da lì per andare chissà dove. Allora passo la parola a Pietro Marangoni. Allora, per prima cosa devo ringraziarvi perché siete in tanti ad ascoltare qualcosa testimoniante sull'Africa, perché testimoniante su paesi non europei, oppure non noti dal turismo di massa, non interessa mai di solito a nessuno. Basta vedere la vicenda birmana di adesso, l'Africa è la stessa cosa. Secondo ringraziamento all'amico Paolo Valente, alla direttrice della biblioteca e a Nicoli, poi vi spiego perché anche, che mi hanno pensato di farmi venire a raccontare alcune cose. Io starò spero di non annoiarvi in 10 minuti, perché parlare dell'Africa per me è un sacrificio, stare in 10 minuti, perché starei qui fino a domani mattina. E avete notato, perché sapevo che Nicoli portava delle immagini, io non ho portato niente, anche perché ultimamente quando parlo dell'Africa non porto più niente. E vi spiego perché. Perché l'Africa va prima riflettuta e poi vissuta. E quindi è inutile che vi racconti delle cose, lui che è un grande conoscitore, veramente, dell'Africa vera, perché le ha scritte e le ha testimoniate. L'Africa è quella che Bacchelli, insomma, aveva raccontato come mal d'Africa. Ma c'è qualcosa di diverso. Io sono andato in Africa, beh, io non sono un turista, non vado con Alpitour, vado da solo. E vado in, sono, e ho visto che c'è lì anche il mio libricino, che mi hanno pubblicato alcuni anni fa, in cui ho raccontato dei miei viaggi in giro per il mondo, in luoghi non banali, perché io proprio la banalità la detesto, proprio non riesco a viverci, anche se siamo costretti a vivere nella banalità, perché io sono qui con voi, vi parlo in vestito e giacca e cravatta, è una banalità, però è la regola di vita qui. Chiaramente quando andiamo in quei posti non andiamo in giacca e cravatta, per fortuna. E Africa, che cos'è l'Africa? Prima di parlarvi e portarvi ad alcune riflessioni sull'Africa. L'Africa, mentre l'Asia da sempre nell'immaginario europeo è la terra del commercio, del mercanteggiare, già i romani andavano, poi Marco Polo ha fatto uno spot su tutto quello che è Asia, commerci con l'Asia, potrebbero prenderlo adesso perché c'è la Cina, e quindi noi guardiamo sempre all'Asia come terra di mercanti. Le Americhe sono, dopo Colombo, la terra dell'avventura, la terra della scoperta. E banale anche questo, però è così. Quindi c'è un fascino di andare in America, sia del nord che del sud, per andare a scoprire nuove civiltà. L'Africa invece che cos'è? Da sempre è la terra del mistero, è la terra lontana, era la terra, anche Plinio lo raccontava, del hic sunt leones, è la terra dell'ignoto, la terra del difficile, la terra del diverso, del nero. E quindi abbiamo detto tutto. È una terra che non ci appartiene, pur essendo di là del nostro mare. È la terra dove ci sono gli enigmi, le sfingi, dove ci sono i deserti, le foreste, tutte cose che per noi europei, mondo culturale occidentale, di cui io sono fierissimo di appartenere, però ha sempre guardato, è la terra dove, l'Africa, dove ci sono gli animali strani, dai lotofagi che dovevano essere in Africa, erano dei personaggi strani. Era la terra dei rinoceronti, delle giraffe, proprio dei mostri. Quindi abbiamo...